Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Allora, 17:13 minuti, così chi mi dice che dico troppi allora è contento. Oggi, al di là della battuta, avremo aggiornamenti continui, ahimè, su quanto è accaduto a Westminster, a Londra. Stiamo cercando di capire, anche avete ascoltato il nostro GR24, la dinamica ancora tutt'altro che chiara, come si sia arrivati, adesso le fonti appunto dicono che sarebbe morta una donna, Scotland Yard conferma che è terrorismo. Come si è arrivati a un numero così alto di feriti, o appunto al netto della conferma speriamo di non avere, della morte di una persona, come si è arrivati a un numero così alto di feriti per le dinamiche che abbiamo capito e che ci sono state raccontate. E avremo degli aggiornamenti alla mezza, 17:30, 35, 18 e 25. E poi, come sempre, rimando ai GR24, così come avremo aggiornamenti anche su un'altra vicenda. E quindi il deragliamento del treno era il Milano, il Basilea Milano, e anche qui molti feriti segnalati. Non bisogna essere, diciamo, degli esperti per immaginare che vi possano essere feriti anche italiani, essendo appunto l'Eurocity Milano Basilea. Diversi feriti, non abbiamo altri aggiornamenti in questo momento. Per quello che riguarda i temi della giornata economico-finanziaria, è ovvio, se ne è già occupato poco fa Oscar Giannino con, diciamo, l'intervista al corrispondente Tobias Spiller. Vabbè, ognuno può giudicare come vuole, ma insomma è inaccettabile. Io mi chiedo che cosa passi per la testa di certe persone con quello che, con la, diciamo, l'alta popolarità che ha in questo momento la gestione dell'Unione Europea, fatta anche e soprattutto da Germania e dagli olandesi, diciamo, che hanno sempre votato a favore in questi anni. Che cosa possa passare, e con la difficoltà che c'è a ricreare riportare un senso di Europa come qualcosa di positivo e non solo ragionieristico, non solo che, diciamo, aumenta la recessione o aumenta le disuguaglianze, in un'Europa in cui ognuno pensa solo per sé e non a livello di casa comune. Vorrei capire che cosa è passato per la testa a Jérôme Dijsselbloem. Noi, non lo dico senza nessun vanto, criticammo Dijsselbloem in questi anni perché, prima che diventasse presidente dell'Eurogruppo, aveva dichiarato ed era uscito con un insieme di frasi allucinanti sulla Grecia, sul Cipro. C'è un gaffer nato. Il problema è che finché sei un gaffer, vabbè, ma qua siamo all'offesa vera e propria. E tra l'altro non ci vuole un genio per capire che Paola Perego sta al servizio pubblico con la famosa classifica delle donne dell'est, tanto quanto uno come Dijsselbloem può stare alle istituzioni parlamentari e alle istituzioni europee, cioè nulla. Allora, aver dichiarato che tra l'altro ci sono furibondi anche gli spagnoli, oltre che i portoghesi e gli italiani, aver dichiarato che sostanzialmente durante la crisi dell'euro i paesi del nord hanno dimostrato solidarietà con i paesi più colpiti. Come socialdemocratico do molta importanza alla solidarietà, ma hai anche degli obblighi. Non puoi spendere tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto. Un'intervista alla Frankfurt Allgemeine Zeitung. Lui è il presidente dell'Eurogruppo, tra l'altro ha ribadito esattamente quelle parole. Non chiedo scusa a Dijsselbloem, guardate come si pronuncia, mi sembra la cosa minore per lui. Renzi, ma soprattutto il ministro Calenda, hanno chiesto le dimissioni immediate del presidente dell'Eurogruppo. Lui, tra l'altro, resterà presidente dell'Eurogruppo fino a che non sarà formato il nuovo governo, perché in Olanda si formerà anche un nuovo governo. Lui, sostenuto dai tedeschi, è stato riconfermato nel 2015. e ha avuto la meglio sullo spagnolo Luis de Guindos. La frase è obiettivamente allucinante. Il presidente ha detto: nessuno deve sentirsi offeso, non è una questione di nord e sud, ma vale per tutti la regola, bisogna rispettare gli impegni. Ma insomma, è una frase assolutamente. Il premier del Portogallo chiede che venga rimosso. Gentiloni non ha risposto, ma ha parlato Calenda, ha detto che vada via subito, sono d'accordo con Renzi. Secondo me forse la frase migliore. Allora, Salvini dice che Dijsselbloem è uno che va ricoverato, va curato da medici molto bravi. Io ricordo che l'Italia ogni anno regala 8 miliardi di euro all'Unione Europea, poi ci insulta dandoci pure degli alcolizzati e dei puttanieri, cito testualmente. Devo dire che forse la frase migliore l'ha pronunciata Prodi, che ha detto con una battuta: beh, nelle parole di Dijsselbloem ho percepito un senso di invidia. Ecco, mettiamola sull'ironia, ma poi ne parleremo in trasmissione. Dunque Giannino ha spiegato, no guardate, Dijsselbloem ha ribadito tutte le parole e le ascolteremo anche da questo punto di vista, ed è un ennesimo caso di uno scivolone, anche perché se uno fosse stato mal interpretato, io in questo non sono d'accordo, avrebbe potuto dire: guardate, sono state tradotte male le mie parole, io non intendevo offendere i popoli dell'Europa del Sud. Anche perché, mi dico una cosa, ma stiamo scherzando, poi racconteremo anche di quelle che sono il consumo di alcol, se vogliamo andare sullo stereotipo, ma qua siamo al luogo comunismo che imperversa e va a braccetto con i neopopulismi e le demagogie. La cosa grave è che non ti aspetti che il luogo comunismo venga portato avanti da chi è presidente dell'Eurogruppo, cioè dei paesi dell'area euro. Dopodiché, Dijsselbloem, si guardi un po' i dati, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il consumo anno pro capite in Olanda è di 9,9 litri di alcol puro, cioè quello contenuto nelle varie bevande, in Italia di 6,6 litri e quindi siamo a 3 litri e 3 in meno. Ora, temo di poter dire che forse anche Dijsselbloem partecipa a questa media. Vista le parole che ha detto, sarebbe da quasi da augurarsi che fosse stato ubriaco, così uno dice: vabbè, ti giustifichiamo per il tasso etilico nel sangue. Parleremo invece in apertura, oltre appunto che gli aggiornamenti di quanto sta avvenendo a Londra, di giovani e lavoro, perché c'è un rapporto impressionante della Fondazione Visentini, presentato oggi alla LUISS, in cui si stima che intanto ci voglia sempre più tempo per i giovani per diventare autonomi da un punto di vista economico. E da questo punto di vista, un giovane di 20 anni nel 2004 ha impiegato 10 anni per costruirsi una vita autonoma, quindi a 30 anni aveva in media una vita autonoma. Nel 2020 ne impiegherà 18, quindi arriverà, se ha 20 anni nel 2020, arriverà ad avere una vita autonoma a 38 anni. Nel 2030, secondo queste proiezioni, ci metterebbe addirittura 28 anni, cioè diventerebbe autonoma a 50 anni, nel senso che a quel punto diventi autonoma a 50 anni e poi diventi nonno o vai in pensione, non ho capito. Il problema qual è? Che da questo punto di vista poi la Fondazione Visentini dice: attenzione, occorre pensare alla maturità fiscale, e cioè chiedere un contributo solidaristico da parte di chi gode delle pensioni più generose con un patto fra le generazioni. Di questo parleremo subito in apertura. Per quello che riguarda invece i mercati, vedo Milano invariata, Parigi invariata, Francoforte perde lo 0,4, Londra meno 0,60, va male Mediaset ma di poco, meno 2%, Generali meno 1,40 come Saipem, l'1,20 lo perde Azimut, invece Leonardo più 1,80, ST Microelectronics più 1,40 come Salvatore Ferragamo, l'1,20 lo guadagna Telecom Italia, Ferrari più 1%. Vedo che oggi alcuni di voi sono già belli accaniti. Lei Barisoni che cammina sopra ai barboni e ai poveri è una cosa vergognosa. Vabbè, io non, guardi, la pensi come vuole, dico solo che cammina sopra ai barboni e ai poveri si scrive senza H, mettiamola così, l'unico rilievo che posso fare. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo con le notizie in breve. Allora, adesso facciamo sentire. Qualcuno dice, attenzione, il paragone è sbagliato, ma lui voleva dire, adesso ne parliamo dopo, che se uno spepera i soldi, donne in alcol e poi chiede aiuto. Ho capito, ma non lo puoi fare come paragone. Ho capito che non stavi dicendo che noi andiamo a sperperare tutti i soldi, che era un paragone, ma io non faccio il paragone con i tedeschi dicendo se uno strangola l'Europa e gli affama, o faccio altri parallelismi, diciamo, che sta usando Erdogan in questo momento. O non, cioè, uno può fare un ragionamento sui compiti da fare a casa, e noi abbiamo una classifica ogni settimana che ricorda gli sprechi di questo paese, perché crediamo che si possa chiedere all'Europa di essere più intelligente nelle dinamiche economiche e non prociclica sulla recessione, non aumentare il ciclo recessivo come ha fatto, a meno che qualcuno non sostenga che l'Europa gestita da tedeschi, dai loro alleati, satelliti olandesi, sia stato un gran successo. Ma guardate cosa sta succedendo a livello economico, politico e di consenso sull'Europa. Ma nemmeno un bambino ve lo direbbe questo. Detto questo, vuoi ricordare che si devono fare i compiti a casa, risparmiare di più? Bene, fare il parallelismo con donne e ubriaconi in un paese che ha uno dei record, l'Olanda, di consumo di alcol pro capite, e voglio dire, e qui mi fermo, dai, sennò poi divento come Dijsselbloem. Da parte donne, andiamo avanti, su, che ma veramente sono dei minus abens, comunque dei minus abens, non so se lo capisco, Dijsselbloem, ma dei minus abens, perché in questo periodo ti chiedi se l'obiettivo non sia poi di così sia altro. Comunque, al di là della borsa, andiamo sull'economia internazionale. Allora possiamo far ascoltare, visto che continuate a scrivere, Dijsselbloem che in aula ha risposto a un eurodeputato spagnolo che gli chiedeva se avesse intenzione di scusarsi per le sue affermazioni, così capiamo che cosa vuol dire. C'è un'espressione in olandese che, se non ricordo male, vuol dire, si dice gaskop, è un insulto, testa di formaggio, ecco, non so se si possa usare nei confronti di Dijsselbloem. Comunque vediamo come ha risposto Dijsselbloem all'europarlamentare spagnolo che gli ha detto ha intenzione di scusarsi per le sue parole nei confronti di Spagna, Italia, Portogallo, Grecia. No, certainly not. That's not what I said. No, assolutamente no. Non è quello che ho detto. Ho notato che per qualche ragione la stampa spagnola ha dato questa lettura. Ciò che ho voluto esplicitare è che la solidarietà deve essere accompagnata da un forte impegno e dalla responsabilità di chi la riceve. Senza un atteggiamento responsabile, il sostegno pubblico non sarà mantenuto. Non c'è bisogno di rileggere le mie affermazioni, perché conosco le mie dichiarazioni. Provengono dalla mia bocca. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Almeno, diciamo, dice che si ricorda quello che ha detto. Non so se sia un aggravante in questo caso. No, ma ecco, ma con questa risposta. Allora, chi mi dice passerai la puntata a sputare veleno su Germania e Olanda? Passerò la puntata a raccontare la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Il bello della radio è che non costa nulla, e se non le piace come passiamo la puntata, mica si è bloccato il dito sul tastino. Allora, andiamo avanti. Juncker ha espresso comunque un distinguo, ha detto ognuno è responsabile per i suoi commenti, anche perché se non parla di quanto uno beve, Juncker, come Trichet, diciamo, ha una sua, così, alea. Allora, dice, ognuno è responsabile dei suoi commenti, il Presidente della Commissione Europea continua sempre espresso amore per il Sud. Ma che cavolo è l'amore per il Sud? Ah, poi arriva Schäuble, mitico Schäuble, un po' ci mancava, il falco tedesco. Il portavoce dice, apprezziamo il lavoro, Schäuble apprezza il lavoro di Jerome Dijsselbloem, e noi contiamo sul fatto che il loro gruppo sia ancora pienamente funzionante per il resto della legislatura. Va bene, ma se va bene così a voi? Il Portogallo l'ha preso bene, visto che qualcuno dice, ma perché vi occupate di questa cosa? Ha detto il premier portoghese Antonio Costa, crediamo che sia assolutamente inaccettabile che resti al suo posto di Dijsselbloem, ci ha insultato, ha dimostrato di essere sessista, razzista, xenofobo e un imbarazzo per l'Europa. Beh, l'ha presa bene Costa, no? Allora, sì, qualcuno mi fa notare che in Olanda, diciamo, la legalizzazione della marijuana e i coffee shop può aver prodotto anche effetti, ma non lo so, mi sembra che sia una roba da pazzi che questo qua ancora parli, ma poi racconteremo le cavolate che ha detto in questi anni, perché poi uno si chiede come ha fatto l'Europa a cambiare nella percezione dell'opinione pubblica, a diventare un cerbero guardiano che non pensa alla crescita, all'occupazione, ma pensa solo a sto deficit, ai decimali. Beh, grazie anche a Dijsselbloem o Dijsselbloem. Andiamo sull'Italia. Ministro Padoan difende le nomine delle società partecipate, molta polemica in questi giorni, l'abbiamo raccontata, soprattutto sulla scelta di Alessandro Profumo ai vertici di Finmeccanica, scelta oggettivamente non premiata dal mercato. Poi vedremo come si muoverà Profumo. Molti l'hanno ritenuta discutibile perché non si è mai occupato di un settore come l'aerospazio, difesa, come appunto Finmeccanica. Padoan difende al Question Time le nomine. I nominativi che compongono le liste di rinnovo degli organi sociali di ENAV, Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane sono stati individuati secondo una procedura di selezione svolta con il supporto di primarie società di consulenza per la selezione e il reclutamento manageriale, sulla base di criteri di professionalità e secondo prassi di uso comune di mercato, in linea con quanto disposto da una specifica direttiva. Le linee guida per la selezione dei candidati riguardano gli elementi caratterizzanti i consigli d'amministrazione in scadenza, la numerosità dei componenti del consiglio, il mix di requisiti e competenze professionali richieste ai consiglieri, le caratteristiche professionali ideali per i presidenti e gli amministratori delegati. Allora, adesso vorrei parlare di una cosa seria, o meglio, grave. Guardate che seria è anche la dichiarazione di Dijsselbloem. In periodo di campagna elettorale, Olanda hanno appena votato, Francia adesso. Non oso pensare se qualcuno dei francesi dovesse ritenersi coinvolto in una dichiarazione sui paesi del sud Europa. Comunque, andiamo alle cose serie. Ahimè, e dobbiamo dare l'aggiornamento su quanto è accaduto intorno alle 16. Davanti a Westminster. La situazione, lo dico subito, è ancora confusa perché abbiamo avuto notizie, appunto erano le 14:52, di spari davanti al Parlamento londinese. Poi nell'arco dell'ora successiva si è avuta notizia che l'assalitore sarebbe stato ucciso dalla polizia, che sarebbe un asiatico sui 40 anni, però è il numero dei feriti, almeno 10-12, e l'ipotesi, ahimè, che vi sia già una vittima. Chiedo a Marta Cagnola, che sta seguendo appunto da quell'ora, dalle 15, la vicenda e i nuovi aggiornamenti, e se perché ho visto Scotland Yard, Marta, parlare esplicitamente di atto terroristico. Sì, Scotland Yard dice che sta indagando per atto terroristico in mancanza di altri indizi. Questa è la prima pista. Intanto ti confermo, si dice che una donna sia morta. La fonte è Sky News, e in particolare a Sky News ha parlato un portavoce del St. Thomas Hospital. Una donna sarebbe morta nell'attacco a Westminster Bridge. Quindi ricordiamo cosa è successo oggi. Un uomo armato di coltello ha tentato di fare irruzione attraverso i cancelli del compound del Parlamento a Westminster. Un'auto ha investito diverse persone sul vicino ponte, ferendone alcune anche in maniera molto grave, e dunque a questo punto, secondo Sky News, uccidendo una donna. Altre notizie dell'ultima ora: è stato firmato il London Eye, la ruota panoramica lungo il Tamigi, probabilmente in via precauzionale, ma diverse persone sono all'interno delle cabine della ruota panoramica fermata per ragioni di sicurezza. Queste le ultime notizie da Londra. Ecco, si è capito qualcosa in più, Marta? Temo di no, sulla dinamica, perché un feritore, un aggressore armato di un coltello che riesce a realizzare, tra virgolette, 12 feriti, a noi è sembrato subito tanto. Sì, allora, si continua a parlare di due elementi distinti, ma ovviamente molto probabilmente correlati. Questo attacco con il coltello di una persona che si sarebbe fatta largo attraverso la folla. Un testimone dice: un uomo tarchiato, vestito di nero, visto entrare nel cortile del Palazzo Nuovo, proprio sotto al Big Ben, aveva qualcosa in mano, sembrava un bastone, dice il testimone, quindi probabilmente era il coltello che aveva in mano quest'uomo. Due poliziotti hanno provato a fermarlo, uno dei due è caduto per terra, mentre l'assalitore muoveva il braccio come se lo stesse accoltellando o colpendo. L'altro agente è scappato a chiedere aiuto mentre l'assalitore ha proseguito la sua corsa verso l'entrata del Parlamento, e a quel punto due uomini in borghese armati di pistola gli hanno sparato 2 o 3 colpi e lui è caduto a terra. Quindi durante questo percorso lui potrebbe aver ferito tutte queste persone, ma ovviamente la situazione è ancora molto confusa. Ecco, chiudendo da dove eravamo partiti, cioè Scotland Yard non ha dubbi sulla matrice terroristica, lascia più così perplessi, mettiamolo in questo modo, l'origine dell'assalitore, nel senso che continuano a confermare da Londra che si tratterebbe di un uomo asiatico? L'unica indicazione sono sarebbe un uomo di circa 40 anni dai tratti asiatici. Che però vuol dire ci sono delle immagini della Reuters di un uomo colpito con una pozza di sangue attorno a lui, però ovviamente non è distinguibile, per ora non si sa nulla di più. Questi sono i particolari, un uomo attorno ai 40 anni di origine asiatica, dei tratti asiatici. Devo dire che le televisioni stanno trasmettendo l'immagine, oltre che di una Westminster completamente blindata, circondata da decine di mezzi della polizia e da ambulanze, anche della ruota panoramica, come tu ricordavi, bloccata con le persone a bordo, cioè, ma dentro le varie cabine. E questo, devo dire, fa il paio, molti lo associeranno anche all'allarme arrivato ieri e di cui stiamo discutendo da ieri, sulla possibilità di trasportare in aereo tablet e personal computer come segnalazione dei servizi di sicurezza, che, lo ricordo a tutti, vedremo se queste due cose sono da legare, però nascevano queste segnalazioni per via di quello che sta capitando con l'ISIS a Mosul, ma non solo, cioè da più parti è arrivata la segnalazione da vari servizi di sicurezza che proprio l'accaduto di Mosul e l'indebolimento dell'ISIS potrebbe generare attacchi terroristici in Europa. Ci auguriamo che si sbaglino. Chiaramente i prossimi aggiornamenti li daremo alle 18, intanto grazie Marta Cagnola, grazie. E dopo il metro e la pubblicità andremo invece a cercare di capire quali notizie stiano arrivando dal deragliamento del treno Milano-Basilea, deragliato all'altezza di Lucerna. Si parla di numerosi feriti, sono aggiornamenti che dobbiamo darvi. Intanto 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Meteo. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. :17:38 e meno male che non interessava, secondo alcuni, il tema di Dissemblem. Continuate a scrivere. Guardate, abbiamo anche la traduzione fatta da Tobias Spiller, corrispondente alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, durante il programma di Oscar Giannino. Non sono assolutamente d'accordo né con Tobias Spiller né con Oscar Giannino. Il bello di questa radio è che uno può anche non essere d'accordo. Perché il fatto che lui usi il riferimento liquori e donne per poi chiedere, io non posso spendere tutti i miei soldi per liquori e donne e poi chiedere aiuto a lei, ho capito che non ha detto esplicitamente Italia, Spagna e Francia, ma sta dicendo la frase tradotta da Tobias Spiller, che fa il corrispondente a Frankfurt Allgemeine Zeitung in Italia, quindi avrà tradotto bene dal tedesco, immagino, no? E dice, ma vedi, ha usato riferito a se stesso. Ma porca miseria, ma se io dicessi non voglio dare i soldi all'Olanda perché io non posso spendere tutti i soldi in canne e alcol e poi chiedere aiuto, non si sentirebbero offesi gli olandesi a cui do dei cannaioli, degli etilisti, anche se l'esempio lo faccio su di me? Ma non parla così un presidente dell'Eurogruppo, arrampicatevi sugli specchi, come si dice specchio in tedesco e in olandese. Ho capito che la traduzione esatta è come socialdemocratico ritengo che la solidarietà sia molto importante, ma chi la chiede, aveva appena parlato dei paesi del sud, ha anche dei doveri, io non posso spendere tutti i miei soldi per i cuori di donne e poi chiedere aiuto a lei. Va bene, possiamo dire che l'esempio è infelice? Non so. E che lui è un pirla? Così. Ma è un pirla da tempo di Dijsselbloem. Adesso vi faccio leggere le dichiarazioni che ha fatto su Cipro, sulla Grecia, sulla Spagna. Un genio. Pirla, appunto, anche qui, attenzione, non è un'offesa. È un'analisi, come la sua, sui paesi del sud. Allora, andiamo su cose ancora più serie. Rapporto Fondazione Visentini presenta oggi alla LUIS. Fa cascare le braccia il professor Luciano Monti, docente di politica dell'Unione Europea all'Università LUIS, uno dei curatori del rapporto. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, quando leggiamo che per diventare autonomi, i giovani italiani nel 2004, quando uno aveva 20 anni, chi aveva 20 anni nel 2004 ci ha messo 10 anni, cioè nel 2014, a 30 anni era autonomo. Chi avrà 20 anni nel 2020 ci metterà 18 anni, quindi diventerà autonomo a 38 anni. Cioè, mio figlio, che si colloca tra 2020 e 2030, diventerà autonomo verso i 50 anni. Non ho capito io, esatto, sì, che cosa dovrò fare a quel punto. Non so, girare con il catetere e cosa per ancora. Però, al di là della battuta, voi chiedete anche un patto tra generazioni e che tenga conto della maturità fiscale. Allora andiamo con ordine. Come avete elaborato questa proiezione sulla capacità e cosa vuol dire autonomo? Allora, intanto noi abbiamo mutuato questo modello dall'Inghilterra, da Londra. Loro sono già dal 2011 che fanno una serie di rilevazioni proprio sulla, chiamiamola così, la distanza, no? Che poi possiamo tradurre in un muro alto 100 centimetri o un metro e mezzo, come ha detto lei, o anche oppure anni, no? Per raggiungere l'autonomia, dove consideriamo autonomia un ragazzo che abbia un reddito e un'occupazione tale da potergli permettere di avere un'abitazione e comunque, cioè, di lasciare il nucleo familiare originario e farsene uno proprio. Questo è un po' il concetto di autonomia. Dopodiché gli inglesi già dal 2011 fanno un monitoraggio europeo e quest'anno hanno fatto il rapporto loro e hanno posizionato il nostro paese al penultimo posto. Noi siamo, diciamo, i penultimi soltanto davanti alla Grecia e quindi questo già è fonte di preoccupazione. Noi poi invece abbiamo, e questo è anche l'oggetto del nostro rapporto, cercato di individuare un indicatore che fosse più coerente con la dinamica italiana ed abbiamo introdotto nei vari indicatori, per esempio, quello del numero dei NEET, che è un fenomeno che in Italia è molto più sentito di quanto possa essere in Inghilterra, oppure abbiamo inserito per esempio il credit crunch giovanile, cioè la restrizione del credito nei confronti di soggetti under 35. Tutto questo ci ha quindi portato ad elaborare tutti questi indicatori, un indicatore sintetico che appunto dà quei numeri che lei ha enunciato, ma che se lo disaggreghiamo, ci andiamo a vedere quali sono gli indicatori che lo influenzano maggiormente, scopriamo, ed è qui poi, questa è anche la parte constituency, no? Cioè la parte poi che permette di capire la strategia per ridurre la situazione, per riportare il divario in termini accettabili, e sono sostanzialmente due, e cioè l'accesso all'abitazione e il patrimonio, ricchezza e patrimonio degli individui. Bene, nel 2030 si scopre che un under 35 avrà un patrimonio che è 14 volte più basso di quello di un pensionato. Allora, poiché sappiamo che il pensionato nel 2030 non sarà più ricco di oggi, questo significa che il giovane, ormai non più giovane, ma diciamo l'adulto non occupato, comunque non autonomo, non avrà un patrimonio, e quindi questa è la cosa più grave, perché questo vuol dire non poter avere una vita autonoma o non poter sopperire a un'emergenza, no? Che potrebbe incorrergli nella vita. Quindi tutto questo ci ha portato a elaborare due soluzioni per riportare questi due indicatori, diciamo, sotto il controllo. Una è la maturità fiscale, appunto, che ha citato lei, che è quella di considerare sostanzialmente il contribuente in funzione della sua età, e quindi in funzione dell'età l'aliquota può variare, a parità di reddito l'aliquota può variare in funzione dell'età, una sorta di perequazione fiscale, no? Questa sì, mi scusi, però non, il rischio, ho capito, lei dice andiamo a godere, a utilizzare la cosiddetta maturità fiscale e magari chiedere un contributo fiscale a chi gode delle pensioni più generose. Sappiamo che chi è andato, diciamo, con retributiva, delle pensioni che noi non vedremo mai, per esempio, non tutti. Però, mi scusi, a me sembra il dividere, per carità, in maniera forse più equa, una torta che sia ristretta. Cioè, la cosa, non vorrei che, ok, una volta che abbiamo anche fatto la solidarietà fiscale, diciamo, la maturità fiscale, poi però se qua non cresciamo, no, esatto, finisce anche la solidarietà fiscale. Cioè la cosa migliore sarebbe tornare ad avere un percorso di crescita che porti, diciamo, i tempi dell'autonomia di un giovane più vicino a quelli del 2004 che quelli del 2030, no? Esattamente, però aspetti, questo è l'altro aspetto della proposta, quindi come ha detto lei, la proposta della maturità fiscale serve per perequare una situazione, no? Ma come dice lei non è sufficiente questo, no? per rilanciare l'economia dobbiamo creare posti di lavoro, non dobbiamo agevolare qualcuno ad andare in posti che non ci sono. Per fare questo serve una manovra shock, per fare questo serve una manovra di diversi miliardi che non possiamo, che quindi dobbiamo andare a prelevare da qualche parte. L'idea della nostra proposta è quella di raccogliere 32 miliardi e mezzo, tale è il costo che sosteniamo annualmente per mantenere, tra virgolette, INIT, dove per mantenere non intendiamo il costo sociale, ma è la mancata contribuzione del NIT, il giovane. Il NIT occupato. È quello che non studia, ecco, né lavora. Stavo precisando per chi non lo sapesse, chi non studia non lavora, e quindi ci dice l'Eurofund a Bruxelles che noi sosteniamo all'anno, la collettività sostiene 32 miliardi di costo, quindi l'operazione è rilanciare l'economia utilizzando una somma analoga, cercando, quindi andando a chiedere un patto generazionale a 2.200.000, diciamo, pensionati più fortunati, i quali sostanzialmente contribuirebbero a un fondo, il quale fondo sarà destinato a una serie, diciamo, di azioni, una delle quali è per esempio la sostegno delle start-up, il sostegno per garanzia, quindi è un fondo, non è un fondo perduto, quindi è un fondo che potrà produrre un reddito per colui che lo sostiene, quindi è un vero e proprio patto, cioè non stiamo chiedendo un contributo, non stiamo prelevando una pensione a qualcuno che deve pagare per colpe non sue, questo è il concetto. Stiamo chiedendo, proponiamo di chiedere a due. Ma diciamo le due cose si possono tenere assieme, cioè no, tu puoi chiedere un patto, sì, assolutamente un patto, certo, generazionale, certo. E anche per esempio a partire dalla politica, adesso non voglio toccare sui vitalizi come esempio, ma come simbolo, per un patto generazionale. Io ho visto che poi tutti quelli che sono andati con retributivo, quando vengono interrogati, no, io non rinuncio. Ragazzi, rendetevi conto che siete andati in pensione con un retributivo che ti portava ad avere la media pensionistica degli ultimi salari, quindi la parte più alta, e chi sta parlando andrà in pensione, se ci andrà, con un contributivo, e vedremo bene come molto, sarà fatto, molto molto più basso. Vale anche per i baby pensionati, cioè non è che i diritti sono sempre acquisiti in sto paese, e sono sempre acquisiti i diritti passati, non ci sono mai diritti futuri. Allora, noi invochiamo l'articolo 3, cioè infatti tutto il rapporto si basa sull'articolo 3. Sì, cioè, sa qual è il problema, Monti? È che la proposizione invecchia. E se lei va a prendere il peso politico dei giovani, dei 18-30 anni, da 18 ai 30, rispetto al peso politico come demografia, cioè un numero di votanti, dei 65-75 anni, non c'è paragone. E quindi la politica poi liscia il pelo al voto, non alla parte produttiva del paese. Ma, sì, certamente, voglio dire questo, però devo dire che già oggi avere tre ministri che si sono seduti e hanno ascoltato dall'inizio fino alla fine, e un'aula magna con dentro in fondo 250 ragazzi, è un segnale quantomeno che se ne può parlare, perché tenga presente che quando nel 2013 avevamo cominciato a parlare di queste cose, non dico che c'era la censura, ma poco ancora ci mancava, e quindi adesso vorrei già riuscire ad affrontare. Però dico, un patto di solidarietà si può avere, però resta sullo sfondo la necessità di tornare a crescere e liberare risorse, perché senza questo tu puoi fare tutta la solidarietà che vuoi, poi finisce anche quella e monti, e poi non abbiamo più niente, perché dopo che abbiamo chiesto, certo, la solidarietà a chi è andato in pensione con retributivo, un patto generazionale di carattere fiscale, quello che vogliamo, tutto giusto nel breve, nel meglio, poi però o torni a crescere veramente, o se no anche quello finisce. Grazie a Luciano Monti, docente di politica europea alla LUISS di Roma, uno dei curatori del rapporto. Traffico, poi ahimè devo dare aggiornamenti da Westminster e poi anche da Lucerna. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, gli aggiornamenti da Westminster. Scotland Yard chiede alla popolazione di stare lontana da Westminster. Il ponte è completamente bloccato, ma bloccato nel senso che gli automezzi che vi circolavano sopra sono bloccati sul ponte le immagini e anche le auto sono bloccate, sono stati fatti evacuare tutti gli occupanti degli autobus. Purtroppo ci sono varie vittime, nel senso che non è più solo una donna a questo punto, ma anche tra i poliziotti. Qui diventa sempre più complicata, perlomeno con le notizie che abbiamo, chiaramente, la dinamica della vicenda, perché tutto è possibile, ma sostenere che un uomo da solo con un coltello abbia fatto varie vittime anche tra i poliziotti risulta abbastanza difficile da sostenere, no? Con un coltello. L'uomo è stato poi, il terrorista è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza, giustamente asiatico, stavo per dirlo anch'io prima, chiedo venia, in inglese non vuole dire necessariamente del Far East, ma vuole dire anche indiano o del Middle East. Comunque tutta Londra è blindata, chiaramente appunto il Tamigi è percorso da motoscafi e gommoni della polizia e delle forze speciali. È in corso un'inchiesta antiterrorismo, e queste sono le ultime notizie che dobbiamo darvi, ahimè, appunto alcuni morti, diversi morti, diverse vittime, tra cui anche dentro le forze dell'ordine. Cercheremo di essere più precisi nei prossimi aggiornamenti. Intanto mi trasferisco a Lucerna, dove c'è Lino Terlizzi del Sole 24 Ore. Buonasera Lino. Buonasera a voi. Allora, è deragliato il Milano-Basilea a Lucerna. Oggi la puntata è una puntata di aggiornamento totale, del resto siamo in diretta e insomma, a questo serve anche la radio. Ed è Milano-Basilea, anche lì si parla di diversi feriti. Dacci qualche aggiornamento. Al momento la polizia lucernese conferma solo 3 feriti. No, ecco, però non si sa la gravità per questi feriti e appunto poi bisognerà vedere se non ce ne saranno altri nel proseguio. Per il resto c'è la conferma di quanto emerso nelle scorse ore, cioè si tratta di un treno tipo ETR 610 di Trenitalia ed era già stato oggi poco prima delle 14 all'uscita della stazione di Lucerna. Lucerna, snodo ferroviario importante per la Svizzera ma anche in parte a livello internazionale. Ci sono ritardi, soppressione di collegamenti, autobus sostitutivi. Qui nella città di Lucerna ci sono code di auto insolite per la solitamente città tranquilla, città elvetica, e un vagone del treno ad assetto variabile si è piegato su un fianco e quindi altri vagoni sono poi usciti dai binari. Un pilone della linea di contatto si è inclinato, la corrente è interrotta. Le cause esatte non sono ancora state rese note. I passeggeri del treno erano circa 160, sono quelli coinvolti direttamente nell'incidente, sono rimasti per circa un'ora nelle carrozze deragliate, sono state poi evacuate con una scala. E altre notizie si attendono naturalmente in serata. Allora, grazie anche a Lino Terlizzi. Ci spostiamo invece sulla borsa. Oggi vorrei andare molto rapido. La giornata è sostanzialmente abbastanza piatta: più 0,17% Milano, meno 0,15% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,70% Londra. Leonardo Finmeccanica più 1,60%, Estima Electronics più 1,50%, Salvatore Ferragamo più 1,20% come Unicredit, Ferrari più 1%, Recordati più 1%, perde Mediaset dopo. Ma ha recuperato qualcosa, meno 1,33%, Generali meno 1,51%, Italgas meno 1,20%, Banco BPM meno 1,20%, Saipem meno 1,1%. Sole 24 ore oggi anche realizzi, comunque non più in crescita, mentre Modelleria Brambilla meno 6,50%, Classe Editore meno 4,86%. Daremo un aggiornamento, anche un'analisi sulla borsa dopo il GR24, ma devo dire non ci sono grandi notizie oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Adesso il nostro GR sugli ultimi aggiornamenti da Londra, poi li riavremo anche noi alle 18.25 e intanto alle 18.08 ci dovremo occupare anche di questo Dieselblum Disco Belvel. Ascolto Gianluca perché smetti. smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Le 18:10, allora vedremo, come ricordavo anche prima, ulteriori aggiornamenti da Londra. La dinamica è tutt'altro che chiara da questo punto di vista, perché appunto le vittime, tra cui anche i poliziotti, sembra che difficilmente possano essere queste vittime, e il numero di feriti lascia molte perplessità sulla dinamica, perché inizialmente continuano le autorità a dire che l'uomo è armato di coltello. Adesso cercheremo di capire. Londra, la parte di Westminster attorno, è praticamente paralizzata. Per quello che riguarda gli altri aggiornamenti, ripeto, la vicenda invece del deragliamento del treno Milano-Basilea si è ridotta come impatto. Io devo parlare, mi rendo conto che la giornata, insomma, devo parlare di questo personaggio, che è il presidente dell'Eurogruppo, si chiama Jérôme Dijsselbloem. Ha fatto infuriare tutti, già l'abbiamo detto in apertura, per un'intervista alla Frankfurt Allgemeine Zeitung. Allora, come si è... cosa avrebbe detto? Avrebbe detto che i popoli del sud Europa, gli dà molta importanza alla solidarietà, ma se tu vuoi la solidarietà e anche degli obblighi, non puoi spendere tutti i soldi per alcol e donne e poi chiedere aiuto. È insorto il premier spagnolo, il premier portoghese, il ministro Calenda, l'ex premier Renzi, tutti hanno chiesto le dimissioni. Devo dire che durante il programma di Oscar Giannino, il corrispondente in Italia della Frankfurt Allgemeine Zeitung, Tobias Spiller, ha tradotto dal tedesco e ha detto: ma guardate che è stato mal interpretato, perché lui dice nella crisi dell'euro i paesi del nord della zona dell'euro si sono mostrati solidali con i paesi in crisi. Come socialdemocratico ritengo che la solidarietà sia molto importante, ma chi la chiede ha anche dei doveri. Io non posso spendere tutti i miei soldi per liquori e donne e poi chiedere aiuto a lei. Questo principio vale sul livello personale, locale, nazionale e anche a livello europeo. Allora, ho capito che non hai detto Spagna, Portogallo e Italia, ma hai fatto un esempio assolutamente fuori luogo, perché è come se avessi detto, per parlare dell'Olanda, non posso spendere tutti i soldi in cannabis e alcol, visto che hanno una delle percentuali più alte di consumo di alcol puro pro capite in Europa. Detto questo, peggio il taccon del buso, non so se questo Dijsselbloem possa capirlo, peggio la scusa del fattaccio, perché la risposta che lui ha dato all'interrogazione di un europarlamentare spagnolo dicendo se voleva scusarsi con i paesi del sud Europa è stata la seguente. No, certainly not, that's not what I said. No, assolutamente no, non è quello che ho detto. Ho notato che per qualche ragione la stampa spagnola ha dato questa lettura. Ciò che ho voluto esplicitare è che la solidarietà deve essere accompagnata da un forte impegno e dalla responsabilità di chi la riceve. Senza un atteggiamento responsabile, il sostegno pubblico non sarà mantenuto. Non c'è bisogno di rileggere le mie affermazioni, perché conosco le mie dichiarazioni. Provengono dalla mia bocca. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Quindi non si scusa e va avanti. Allora, fermo restando che abbiamo sempre ricordato la necessità per tutti di fare i compiti a casa, in primo luogo a casa nostra, che abbiamo una classifica ogni venerdì sugli sprechi della pubblica amministrazione, che l'Europa non può essere usata come una scusa per non migliorare la finanza pubblica, ma soprattutto la tipologia di spese, gli sprechi e anche la corruzione di questo paese, io mi chiedo che cosa passi nella testa del presidente dell'Eurogruppo nel momento in cui l'Europa ha il più basso indice di gradimento della sua storia, grazie anche alla gestione tedesca e del paese satellite Olanda. Faccio notare, e poi interverranno gli ospiti, che da un lato Dijsselbloem non è nuovo a queste cose, perché tra l'altro aveva inventato un master in Business Economics all'Università di Cork, nel senso che da questo punto di vista si è scoperto che non li aveva mai fatti questi master. Ma soprattutto nel 2013 disse che il salvataggio di Cipro era un modello per l'Eurozona e crollarono i mercati. Nel corso degli anni ha messo nell'angolo prima la Grecia, poi l'Italia, e poi ha chiesto riforme, ma rispetto ai bilanci l'austerity non è la causa della crescita debole. Ma faccio notare, concludo, che l'Olanda ha salvato con 25 miliardi di euro nel 2008 ABN AMRO, salvata con soldi pubblici olandesi, si poteva ancora fare, ha ripatrimonializzato per 10 miliardi ING Group, ha nazionalizzato nel 2013 il gruppo bancario assicurativo SNS Real con 2 miliardi e 200 milioni di nuovi capitali, fornendo garanzie per 5 miliardi. La Germania, che tanto piace a Dijsselbloem, ha speso sostanzialmente 123 miliardi per salvare le 5 maggiori Landesbanken. Si poteva fare. Ringrazio Adriana Ceretelli, corrispondente di Autorista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. E ringrazio anche Giulio Sapelli, che torna in veste non di uccellaccio ma di commentatore di cosa sta capitando alla testa delle istituzioni europee. Buonasera Sapelli, insegna di storia dell'economia alla Statale di Milano. Allora Sapelli, stiamo tutti troppo sensibili, come dicono, voglio difendere Dijsselbloem, tutti troppo sensibili, ha detto la verità e ce la prendiamo troppo? No, no, scusi, mi sembra che i nodi siano venuti al pettine. Solo l'altra sera ho sentito Enrico Letta a Vespa, perché anch'io ho queste perversioni a volte, che diceva che bene o male che c'è l'Europa, questa Europa, se no l'Italia non potrebbe governarsi da sola. Voglio dire, dopo 20 anni di ciampismo e di Tommaso Padoa-Schioppismo che dicevano che senza l'Europa noi non avremmo potuto autogovernarsi, lei si stupisce che se adesso c'è questo ragazzotto che, come ha ricordato lei, non è riuscito neanche a fare un CV a posto, che dice che noi siamo praticamente siamo delle cicale. Ecco, ma poi io che leggo un giorno sì, un giorno no, devo dire non leggo la Frankfurter Allgemeine, ma la Süddeutsche Zeitung, ma il signor lì, come si chiama, Tobias Spiller, che è qui da 20 anni e non parla italiano, non riesce a fare una frase con la consecutio tempo, e se lei legge gli articoli che fa ci descrive esattamente come quelle persone lì. La vera differenza tra noi e gli altri paesi è che noi abbiamo creato questa favola su di noi, e quindi vede, adesso i nodi vengono al pettine, e abbiamo concesso a dei teppisti, perché questi sono dei teppisti, poi questo è un socialdemocratico, io da vecchio socialista mi rotolo nella disperazione, no? questo è il frutto del blairismo, no? Per persone che non hanno mai avuto un'idea di che cos'è, non dico la solidarietà, ma neanche lo studio, eccetera. Quindi siamo stati noi i primi a dire che l'Europa, senza l'Europa saremmo finiti a catafascia. Adesso ci sono loro che ce lo dicono in faccia con questo tono sprezzante. Mi fa molto piacere che lei ha ricordato quei numeri molto importanti, ma mi dica lei, salvo la dottoressa Ceretelli, che in questa cosa è di una esemplarità professionale, che questa cosa che ha sempre detto, mi stupisco che la facciano scrivere ancora sul Sole, cioè che l'abbiano fatto scrivere, adesso le cose sono molto diverse, le faccio i migliori auguri, ma lei queste cose le ha sempre dette, ma se lei guarda la stampa, la televisione, hanno detto ciò che dice di essere buon sotto altra forma. Sì, allora però Adriana Ceretelli, continuo a cercare di fare l'avvocato del diavolo di Dijsselbloem. In realtà alcuni mi stanno scrivendo, ma guardate che insomma lui ha ragione, noi siamo il paese che spreca, lui dice alcol e donne, a parte il fatto che io ho detto iniziando il programma che Paola Perego sta al servizio pubblico della RAI come Dijsselbloem sta alle istituzioni europee, cioè voglio dire, ma la classifica delle ragazze, dei motivi per cui sposarsi una ragazza dell'est sta alla dichiarazione di Dijsselbloem. Qui siamo al luogo comunismo, una volta c'era il pericolo del comunismo, qua mi sembra che sia il pericolo del luogo comunismo, cioè proprio una roba da bar e becera, pur cercando di difendere Dijsselbloem, Adriana, il problema non è ricordare i paesi che devono fare i compiti a casa, questo l'abbiamo sentito molte volte, è che con questa poca fiducia e consenso nell'Europa mi sembra veramente un'operazione di un masochismo totale, no? Ma io devo dire la verità, che io trovo che Dijsselbloem ha dimostrato che la stupidità politica è equamente divisa tra nord e sud, e in questo caso un po' con prevalenza nord, nel senso che nel momento in cui si parla di Europa a più velocità, di integrazioni differenziate, c'è l'Est in armi, nell'euro c'è un disagio da sempre, la crisi non è risolta, bisognerebbe migliorare, rafforzare la governance, non si può fare per le divisioni, eccetera. Questo ti tira fuori una frase da bar così idiota che secondo me non meriterebbe nemmeno di essere commentata. Ha ragione il premier portoghese che dice almeno si fosse scusato. No, non riesce neanche a scusarsi. Cioè io trovo che è una cosa ma veramente pietosa. Non saprei come altro descriverla. C'è chi dice che l'ha fatto perché vorrebbe essere confermato come presidente dell'Eurogruppo, ma è un meschino se l'ha fatto in questo senso. In realtà riflette un credo profondo, non ci dimentichiamo che la famosa dottrina del Club Med che fu lanciata all'epoca del Trattato di Maastricht fu lanciata da un altro olandese, da un altro ministro delle finanze che si chiamava Gerrit Salm. Cioè voglio dire, loro hanno sempre questo atteggiamento totale disprezzo e presa di distanze dai paesi del sud, ma non per razzismo, semplicemente perché ritengono che non siamo in grado di arrivare all'altezza della convergenza necessaria per avere una moneta unica, punto. Ma io trovo veramente una cosa pietosa quella che ha fatto. Ma soprattutto quella di non aver riconosciuto di aver fatto uno scivolone. C'è un'agenzia, sì, voglio dire. Che formalmente si può dire che lui non ha citato i paesi, ma sono tutte chiacchiere, insomma, voglio dire, è molto più politicamente coraggioso dire sì, ok, ho sbagliato, punto. Sì, qualcuno mi fa notare che il presidente della Camera Boldrini su una frase così sessista, perché insomma anche qui alcol e io spendo in alcol e donne, dovrebbe intervenire. Ma al di là di questo, poco fa ha parlato Dijsselbloem, mi dispiace che pochi istanti fa che il mio messaggio sia stato frainteso e che sia emerso come nord contro sud. Ma devo stare zitto, ma posso rileggere un attimo un'intervista? Adesso mi stanno girando. Allora, tradotta da Tobias Spiller, ok? L'intervista, perché dico anch'io ritengo che il patto sia estremamente importante, dice nell'intervista, perché gli chiede l'intervistatore: da un lato ci rendiamo calcolabili verso l'esterno se lo applichiamo in modo conseguente, dall'altro quel patto crea fiducia all'interno della zona euro. Nella crisi dell'euro i paesi del nord della zona euro si sono mostrati solidali con i paesi in crisi. Come socialdemocratico, ritengo che la solidarietà sia molto importante, ma chi la chiede ha anche dei doveri, quindi i paesi del sud. Io non posso spendere tutti i miei soldi per liquori e donne e poi chiedere aiuto a lei. Ecco come abbiamo fatto a malinterpretare nord-sud. Comunque dice: mi dispiace se qualcuno si sia sentito offeso, la frase sulle donne e l'alcol era riferita a me stesso, e questo l'avevamo intuito sull'alcol. Ho detto che non posso aspettarmi che se spendo i miei soldi in modo sbagliato possa poi chiedere aiuti finanziari. Non ho intenzione di dimettermi. In questo è molto Europa del Sud, Dijsselbloem. Ma che ne è stata della socialdemocrazia di una volta, Sapelli? Poi mando il traffico, dai. Sì, poi mandi il traffico, guarda, fai bene a mandare il traffico. Ah, mando il traffico, e poi lei mando il traffico e poi lei mi risponde che fine ha fatto. Cioè, questo è un socialdemocratico. Traffico e poi la risposta. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Allora, Sapelli, poi devo andare a Londra, vedo che i morti appunto sono saliti a 2 e molto. Theresa May ha convocato quella lo stato cosa. Di cosa, il gabinetto di cosa. Emergenza. Sono rapidissimo perché quella è una cosa di una gravità estrema. No, dove è andata la socialdemocrazia? Se pensiamo che Blair fosse, non dico sia, fosse e ancora è un socialdemocratico, lui è in linea con la socialdemocrazia. Se pensiamo alla vera socialdemocrazia, che era quella di Willy Brandt, era quella di Olaf Palme, era quella di Mitterrand, beh, quella non c'è più, perché lui è il prodotto di questa deriva liberista, eurocratico, oligarchico, che i socialdemocratici hanno preso, a cominciare da quelli tedeschi, che adesso sembra che siano decisi un po' a cambiare la rotta, perché se no la Merkel li massacra, perché naturalmente adesso la gente preferisce come sempre l'originale dalla ecco, coppia, ma mi pare che sia socialdemocratico doc, insomma, proprio. Allora, l'ultima domanda però, Sapelli, su questo, mentre sto guardando appunto le immagini che arrivano da Londra e su cui adesso vi aggiorneremo, tutto quello che vogliamo, ma in questo momento avere una dichiarazione del genere non può essere solo una voce dal sen fuggita, nel senso che qui che parallelo c'è tra il luogo comunismo e i populismi? A me sembra che viaggino come un'altra cosa, viaggino assieme. Sono l'uno l'altra faccia dell'altro, questo non c'è dubbio, ed è naturalmente questi Düsseldorf che danno, quelli che richiamano populismi, io chiamo movimenti di destra, neofascisti e neonazisti, questi avanzano perché hanno dichiarazioni di questo tipo che sono di un assoluto disprezzo. Poi c'è un razzismo profondo che però, ripeto, abbiamo alimentato anche noi. Diciamo, mentre i greci, gli spagnoli sono stati persone dignitose, noi italiani, se guardiamo la nostra storia di vent'anni dietro, i nostri rappresentanti in Europa e in Italia hanno calpestato la nostra dignità nazionale. E lo dico io che, come lei sa, non sono per nulla sovranista, sono un internazionalista, ecco, quindi vado ben oltre l'Europa. Ma no, ma però il concetto di patria andava difeso, noi invece abbiamo aperto le porte ai Düsseldorf. Adesso questi ci ridanno il prezzo che noi meritiamo. E sarebbe ora che la gente si svegliasse, leggesse un po' di libri seri e non continuasse a dire queste litanie sull'Europa che va tutto bene, madama la Marchesa, ha detto bene la dottoressa Celletelli, adesso che si spaccherà in due l'Europa, se questo è l'orientamento, sarà un massacro sociale, perché vorrà dire, se noi, adesso bisognerebbe che questi nostri parlamentari non votino adesso il fiscal compact, spero che davanti a queste cose qui abbiano un sussulto di dignità e non votino il fiscal compact e non votino il 3%, perché allora vuol dire proprio che la storia non insegna niente e che sono anche loro tutti quanti, destra, sinistra, centro, Renzi, non Renzi, tutti certo, socialdemocratici come Düsseldorf. Mi viene il palletico a sentire quella vabbè, gente, ho capito. Poi non hanno neanche preso un master, no? Poi ti vengono a parlare dell'economia europea, ma preferisco il perito tecnico. Su questo non c'è dubbio. Grazie anche a Giulio Sapelli. Adesso invece dalla polemica, ripeto, che è di carattere anche politico, passiamo alla cronaca, ahimè, di quanto capitato a Londra poco prima delle 3. Allora, Marta Cagnola, due, se ho ben capito, le vittime, dinamica sempre più da chiarire. Assolutamente sì. Allora, due vittime, la notizia arriva da Sky News, sono due le vittime dell'attacco terroristico avvenuto a Londra e c'è una donna finita nelle acque del Tamigi. La donna si trovava sul ponte di Westminster, sappiamo che un'auto è piombata sui passanti, questa donna è stata tratta in salvo ma attualmente è sottoposta a un intervento d'urgenza. Sky News parla di feriti e parla di catastrophic injuries, ferite catastrofiche, utilizza questo aggettivo Sky News, quindi feriti molto gravi. BBC invece ha intervistato un testimone che parla di un pacco sospetto attaccato a un veicolo trovato fuori dal Parlamento di Londra. Gli agenti si stanno occupando del pacco prima di dare l'inizio all'evacuazione di Westminster, ha spiegato la BBC, precisando che all'interno del Parlamento ci sono ancora le forze speciali. È in corso un'investigazione antiterrorismo, lo dicevamo, e questa è l'affermazione di Scotland Yard. Dopo l'attacco, il primo ministro Theresa May ha convocato d'urgenza una riunione del Comitato di Emergenza per la Sicurezza Nazionale Cobra. La May si trovava proprio all'interno del Parlamento al momento dell'attacco ed è stata subito portata fuori a bordo di un'auto. E quindi ci confermi che rispetto alla versione iniziale, poco dopo le tre, un accoltellatore avrebbe ferito, già sembrava strano avere così tanti feriti, lo dico nel massimo rispetto, con un uomo solo, che la dinamica è tutt'altro che chiara, auto non auto, pacco sospetto e soprattutto due morti e alcuni e una decina di feriti, tra cui anche poliziotti, per cui la dinamica, ahimè, è tutta ancora da chiarire. Grazie intanto a Marta Cagnola, che poi ritroveremo nel corso del GR24 delle 19. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.